Ben arrivato Renzo, sono contenta di conoscerti. Forse per chi non se lo ricorda, Renzo Fracabandera è il guru di una rivista fighissima, che veramente fighissima, che al momento si trova online, ma prima ci raccontava insomma che ci sono state delle vicissitudini, delle trasformazioni nel tempo, che si chiama Pane Acqua Culture. E se non la conoscete vi consiglio di andare direttamente sul sito a spulciarla, perché è un sito ricchissimo, veramente veramente pieno di cose interessanti. Quindi ben arrivato Renzo. Ciao Laura, ciao Fedra e grazie di questa presentazione, insomma, che racconta un po' del percorso di paneacquaculture.net, una rivista che esiste nella forma che potrete visualizzare cliccando così dal 2013, quindi ormai sono quasi 10 anni di militanza culturale in questa forma online. Noi nasciamo da un'altra rivista che si chiamava Aprile, poi Pane Acqua, che è stata edita anche in cartaceo, e poi dopo la redazione culturale si è staccata e ha creato questo esperimento di narrazione virtuale dell'arte contemporanea e soprattutto dello spettacolo dal vivo. E questa è. E infatti al Coxo, PAC, che è la forma acronima che fa anche tanta simpatia coxica, e al Coxo interessa molto perché proprio dal mio punto di vista PAC si configura per la sua frequentazione, la sua collaborazione con studiosi, artisti, critici, come un osservatorio privilegiato su quello che è il panorama del contemporaneo, intendendo per contemporaneo certo una grande fetta del performativo, ma anche poi tantissimi altri aspetti delle espressioni artistiche contemporanee, appunto. Contemporaneo è una parola sempre ambigua e foriera anche un po' di paura, nel senso che poi alla fine le persone diffidano, hanno sempre idea che ci possa essere qualcosa di incomprensibile, di riservato a pochi adepti che sono lì a capire l'arte così nelle forme più astruse. Secondo me, come sempre è stato nella storia dell'arte, l'arte esprime il tempo in cui la si fa, e quindi anche non capirla vuol dire che in fondo ci sono delle cose del nostro tempo che non capiamo. Quindi noi, intendo me e il gruppo di persone che con me crea tutti i giorni questa rivista, si sforza di capire, poi magari è una nostra fantasia e invece non capiamo nulla. Penso che nell'arte esistano alcuni strumenti che danno possibilità di intuire delle questioni e noi cerchiamo di metterle a disposizione dei nostri lettori. Tra l'altro ti ringrazio per questa introduzione, perché nel leggere, nello spulciare il vostro sito, da fruitrice d'arte, non ho una formazione che viene dall'arte come Fedra, non sono un artista nel senso classico del termine assolutamente, mi occupo di yoga, io faccio proprio tutt'altro. Però sono una curiosa e sono una fruitrice d'arte. Nello spulciare il vostro sito ci sono delle sezioni che a me sono piaciute tantissimo, e anzi mi è dispiaciuto non conoscervi prima, cioè intendo prima del lockdown, prima di questo cambiamento del quale forse parleremo anche, perché ad esempio c'è una sezione con delle interviste che sono estremamente chiarificatrici. Io ad esempio tramite un vostro articolo ho scoperto Nadia Terranova, che io non conoscevo, e sono andata a cercarmi le sue cose. Da fruitrice è un sito fatto benissimo e molto amichevole dal punto di vista proprio cognitivo. E intanto ti ringrazio. E quando i nuovi collaboratori iniziano a collaborare con noi, cosa che avviene su base volontaria, noi accettiamo sempre delle candidature di persone che sono appassionate dei linguaggi della contemporaneità. E io posso dirti che in 10 anni non ho mai chiesto un articolo ad un collaboratore, proprio nell'idea che PAC sia uno spazio di libera espressione delle intelligenze che collaborano. Quindi i collaboratori scelgono gli argomenti da presentare a chi coordina il gruppo. C'è una sorta quindi di volontariato intellettuale prima di tutto, cioè ognuno sceglie di cosa occuparsi e io quando diciamo accolgo i collaboratori nel gruppo dico loro: la prima cosa che mi interessa è che diciamo il non vedente che sta vicino a voi, di fianco a voi, idealmente, no? Che il lettore che non ha ancora visto lo spettacolo lo deve poter immaginare con la vostra parola, e quindi è importante che non ci siate voi davanti al palcoscenico, davanti all'artista, a raccontare voi stessi, ma che chi legge immagini, guardi, osservi quello che c'era in scena. Quindi non voi come soggetti protagonisti di chissà quale narrazione, insomma un po' egotica, mi scuso del termine un po' complesso, ma insomma è una manifestazione del proprio ego che spesso prende gli scrittori, no? E invece l'obiettivo di PAC è quello di dare a chi legge la possibilità di capire cosa stava succedendo. Grazie, questo dal punto di vista del lettore ignaro si sente benissimo e te ne ringraziamo. We'll be right back. rieccoci di nuovo in pseudo diretta coxica insieme a PAC e ci eravamo lasciati sul rapporto che i redattori della rivista devono avere nei confronti del pubblico, di questi lettori che ovviamente sono ignari di ciò che andranno a vedere. E poi cosa succede quando vanno a vedere? Di solito ci testimoniano la correttezza del nostro sguardo o magari ci raccontano che la pensavano diversamente. Di solito i nostri racconti sono fatti un po' così, cioè partono dalla descrizione di quello a cui il redattore ha assistito in maniera molto neutra, almeno il tentativo è quello proprio di raccontare quello che si è visto. Poi dopo questa cosa che, a cui si è assistita viene messa in relazione con il percorso degli artisti, quello a cui gli artisti hanno lavorato nel tempo, come è cambiato il loro linguaggio, se questa opera nuova è continuativa rispetto a una pratica, rispetto al linguaggio di quell'artista che continua quindi a fare la sua ricerca su quella specifica modalità, oppure se invece è una cosa totalmente nuova. E quindi diamo questo strumento al lettore che va così a comprendere se questa cosa è un'operazione di continuità o discontinuità. E dopo il redattore ovviamente conclude il pezzo raccontando quello che per lui è stato più o meno interessante. Detto questo, cosa va a vedere poi? Beh, quando uno spettatore va a vedere entra sempre in scena la propria sensibilità, il proprio vissuto, qualcosa che emoziona a livello personale o non emoziona a livello personale, quindi ci sono anche tante volte in cui il lettore non ritrova quello di cui abbiamo parlato, o almeno non tutto, però quello fa parte del momento soggettivo di rapporto con l'arte, che è sempre da incentivare. Io penso che anche quando la comunicazione dell'artista che fa il suo spettacolo non arriva allo spettatore in maniera intensa, c'è un motivo e lascia quindi allo spettatore il modo di interrogarsi. Io non credo molto al fatto che quando si esca da uno spettacolo bisogna chiedere ti è piaciuto o non ti è piaciuto. Quello è un dubbio che dal mio punto di vista non ha a che fare con la critica e con il pensiero, ma è stato interessante, mi dà da pensare. Questo secondo me ha a che fare con la critica e con il rapporto giusto con il linguaggio proprio e degli altri. Mi è salita un'osservazione sulla questione del è interessante o non è interessante. L'arte, ma come tutte le cose della nostra, cioè nella nostra vita, noi facciamo esperienze e l'arte è un'esperienza, è l'occasione di fare delle esperienze a un altro livello, in un altro modo. Allora effettivamente hai ragione, mi ha colpito quando hai detto ma non ha senso che il critico mi dica mi è piaciuto o non mi è piaciuto, perché resta lì. E forse neanche tanto al pubblico, cioè io posso dire che certe cose non mi sono piaciute, ma cioè nel senso magari non sono state nella gradevolezza, però mannaggia se sono state delle esperienze, se sono state interessanti, se sono state stimolanti. Dunque, il discorso del diciamo su quello che per noi è importante e interessante è un discorso che secondo me con la comunicazione social è molto cambiato. Perché? Perché la comunicazione social porta a forme di viralità e di creazione di mode, di fenomeni di massa, di forme stereotipate anche, codice. Per cui siamo passati da anni in cui c'era una grandissima libertà dell'espressione, negli anni 70, all'inizio degli anni 80, con forme diciamo molto molto libere di manifestazione dell'arte, che hanno permesso tra l'altro a molte di queste arti di cui ci occupiamo oggi, quindi la performing art, il teatro, la danza, di mescolarsi fra loro in maniera inscindibile. Penso, che so, al lavoro di Pina Bausch che ha mescolato il teatro e la danza, penso a tutta la cultura pop vita americana che negli anni 70 e 60 ha mescolato la parola, il movimento, l'arte nella strada, l'evento dal vivo, l'happening. Noi siamo ancora figli di quel tempo e a questo si è aggiunto tutto quello che è stato possibile ed è possibile con le nuove tecnologie. Però la comunicazione dell'arte sta molto cambiando e purtroppo in maniera banale, perché il linguaggio online si è molto banalizzato. E a questo proposito si parlava di evoluzione e in effetti negli ultimi mesi, di riflesso a questo anno così particolare, si possono già notare dei semi e dei cambiamenti effettivi? Ma intanto, come tutti sappiamo, il lockdown è stato un periodo in cui la comunicazione dal vivo purtroppo non c'è stata. Ancora adesso molti teatri non hanno quasi riaperto e quelli che stanno riaprendo lo fanno con grande fatica rispetto alla possibilità di popolare la sala in maniera anche redditizia, perché purtroppo una volta che la sala riduce la sua capienza a meno di un terzo, tutta una serie di operazioni e di possibilità di sostegno agli artisti vengono meno. Già prima era molto complesso, adesso è veramente diventato difficilissimo. E il lockdown ha dato a molti la possibilità di inventarsi qualsiasi cosa. Siamo stati per mesi in chiacchierate Zoom come questa, a fare esperimenti di arte, diciamo, e di discussioni sull'arte, a volte più popolate, a volte meno, ma che diciamo hanno cercato di coinvolgere il pubblico. Cos'è la Come è cambiata la forma dell'arte? Secondo me le forme dei linguaggi non cambiano dall'oggi a domani, però sicuramente ci sono stati dei cambiamenti per cui ci stiamo abituando o disabituando a stare a vedere cose per troppo tempo, cose lunghe, tutto si fa più veloce. E qui ci sarebbe da aprire, a proposito di velocità, ci vorrebbe un inno alla lunghezza e aprire capitoli e capitoli, però sono incombenti le super mega galattiche pubblicità delle 7:30, perciò a più tardi. What's up? How's it going? Neo real cheekbone. She is so dreamy. Like she got features on Fellini. Deadpan, unimpressed. Archimedes, palimpsest. Just hanging out. Oh, Julian Casablancas. She is an epiphany. Burrilla, just a day. Opens my days like she always grew. I feel like affinity. M-A-A-F-A. In all the ways, she's a great through. Under the sun, there's nothing new, but she keeps it 100 in the shade. She's a breakthrough. It's cold out there, there's nothing new, but she keeps it 100 in the shade. She's a breakthrough. She is so wild, middle earth, highbrow. Her line is Pablo, but her color's five, so what about it? Just to review, she will a breakthrough. Nobody stops her, no one can lock her down. She is an epiphany, a relentless day. Opens my days like she always knew. essere Fabio Di Camillo e anch'io ascolto Coxo Spaziale. Coxo Spaziale! Stai ascoltando Coxo Spaziale? Performance, ricerca, teatro. L'angolo della menzione. Ed eccoci qui per il 331esimo Coxo insieme ad un ospite di eccezione, il grandissimo, il megagalattico Roberto Alessi, che è qui per parlarci della terza edizione del Festival Boom, cantiere creativo che avrà luogo a Calderara di Reno. Benvenuto al Coxo, caro Roberto. Grazie al mega galattico Coxo, comunque, perché ci ospita in questa trasmissione e ci fa molto piacere. Ma dimmi un pochino, come nasce e perché è speciale questa edizione del Festival Boom? Allora, Boom Cantiere Creativo Calderara, appunto, arriva alla sua terza edizione, è il momento, diciamo, di raccolta di tutte le attività che vengono sviluppate durante l'anno dalla Casa della Cultura Italo Calvino, che è di recente inaugurazione, è stata inaugurata 2 anni fa, quindi quest'anno siamo al terzo anno di attività, e dall'altra parte ha la funzione anche invece di sviluppare le proprie attività e lanciarle su nuovi orizzonti, quindi un po' uno snodo centrale, Boom, proprio per dimostrare il potere esplosivo della creatività e della cultura. Questo è il concept di fondo. Di solito gli altri anni era appunto esplosivo in 4 giorni, esplodeva in 4 giorni, quest'anno abbiamo dovuto diciamo calmierare le micce, perché appunto abbiamo cercato di trasformare i limiti imposti dall'emergenza nell'opportunità. Alla fine abbiamo visto positivo, abbiamo in pratica esploso ulteriormente questo concetto di boom, perché è iniziato il 10 di ottobre e finirà verso fine dicembre. Abbiamo dato un più ampio respiro, una progettazione più accurata e uno sviluppo fatto insieme a 6 compagini artistiche, non dico 6 artisti perché alcuni sono anche dei gruppi, con i quali ci siamo incontrati subito dopo il lockdown e abbiamo deciso appunto di reagire allo spaesamento, all'incertezza di quel momento, con un gruppo di lavoro multidisciplinare nel tentativo di riconnettere le idee e le energie attraverso un progetto originale, ed è nata questa edizione di Boom, Casa Dolce Strada. Casa Dolce Strada, che è appunto il titolo di questa edizione del festival. Casa e strada, che sono le due polarità che hanno caratterizzato la nostra vita nel 2020. Da un lato la casa vissuta come non mai, dall'altro la strada agognata e desiderata come non mai, squisitamente sintetizzati nel titolo della manifestazione. È subentrata la creatività di Clelia Sedda, che ha tradotto con una sintesi questi opposti, con il titolo Casa Dolce Strada. Oggi parlandone direi che potrebbe essere anche strada dolce casa, potrebbe essere anche il suo inverso. È un po' un meccanismo appunto per andare al di là di quelli che sono gli aspetti fisici, no? Sia di casa che di strada, andare più su quelli che sono gli aspetti simbolici, e più che altro mettere in luce i due poli concettuali, no? Che, attraverso i quali si gioca il nostro rapporto fra questi poli opposti, cioè identità, cambiamento, sicurezza, euforia, chiusura, apertura, manipolazione, comunicazione. Questi sono un po' i temi che sono nati da questi nostri brainstorming, che sono stati incorporati dagli spettacoli e delle attività, soprattutto laboratori che hanno un grande coinvolgimento anche della comunità di Calderara, ma non solo, della comunità che si è nata in questi anni attorno alla Casa della Cultura, e che viene concretizzata in questi 6 progetti particolari. E infatti mi dai perfettamente l'assist, perché poi ci sono 2 percorsi laboratoriali che sono espressamente rivolti alla collettività. Facciamo una breve anticipazione, poi tutti i link si troveranno sul blog del nostro programma. Sì, sì. È chiaro, 2 dei progetti di questi 6 che ho citato sono appunto il progetto Homes with Home, a cura di Macellerie Pasolini, con Emilio Ruffolo, che guiderà quindi un laboratorio teatrale a suo modo, nel suo stile, fatto tutto in poca parola ma molta corporeità, molta fisicità. Partirà questo lunedì sera, ci sarà la possibilità comunque di iscriversi anche la prossima settimana se si vuole. È un laboratorio di teatro espressivo e anche di scenotecnica, grazie a Perilli, scenografa. Nel contempo del laboratorio teatrale costruirà, assieme a delle persone che vogliono partecipare, alle scenografie di uno spettacolo, di una performance che andrà in scena il 4-5 dicembre, dove l'interno della Casa della Cultura diventerà metafora di una casa e il pubblico, in stile voyeuristico, vedrà cosa succede dentro da fuori. In questo, in dicembre, sarà un po' freddo, ma è un'altra sfida creativa all'interno del nostro festival. L'altro importante e interessante laboratorio è quello condotto da Clelia Sedda, che verrà avviato invece sabato 17 ottobre e sempre con appuntamenti settimanali arriverà il 5 dicembre. Il titolo del laboratorio è Come avere sempre ragione, corso per imparare a litigare bene, aiutati da Aristotele e Schopenhauer, ed è un percorso volto ad analizzare e riconoscere gli errori dell'argomentazione per non essere sopraffatti dagli altri. In pratica andiamo nel tema della comunicazione, dei suoi paradossi e delle sue fallacie. 2 laboratori interessanti che partono questa settimana, ai quali invito tutti ad andare a ricercare le informazioni sul sito di Boom, boomcantierecreativo.it, oppure chiamando direttamente la Casa della Cultura. Un'ultima cosa velocissima prima di salutarci, perché noi del Cox arriviamo sempre un pelino dopo, ma non importa, il festival è partito già da sabato, ma i prossimi appuntamenti, quelli di questa settimana qui, ci puoi dire 2 date che poi rimandiamo tutti ai link? Allora, un altro progetto importante è quello condotto da Daniele Albanese, la sua compagnia Stalker Daniele Albanese, che si intitola Home Homing. E anche questo è un progetto dedicato al concetto di casa come spazio creativo individuale, e avrà una prima rappresentazione il 16 di ottobre alle 18.30 con un dialogo performativo in compagnia di Enrico Pitozzi e Simona Bertozzi nel teatro appunto di Calderara, e mentre il 18 ottobre alle 10 di mattina, per le persone che si alzano la domenica mattina alle 9, ma invito tutti a farlo, perché sarà una biciclettata per andare a visitare la mostra Prospettive di Andrea Battangelo, perché è una mostra con di poste di grandi dimensioni affissi in muri pubblici e privati di Calderara e periferia, quindi sono 20 km di biciclettata. Thank you. parlare insieme a Renzo Francavandera di PAC, Pane, Acqua e Culture. E abbiamo visto come nasce, da che esigenze nasce una rivista, quali sono le indicazioni che vengono date ai redattori. E abbiamo anche visto che c'è un vitalissimo scambio tra i redattori e il pubblico stesso. E come continuiamo, Laura, a intervistare il nostro Renzo? La prima cosa che mi ha colpito, ma proprio perché forse è saltata fuori in home page, non saprei dirti, perché nelle miliardi, non lo so, però insomma nel bel po' di calderone, di tante sollecitazioni che si trovano sul sito, la prima che ho aperto aveva questo titolo, forse è il titolo un po' che mi ha chiamato, si chiama Prove generali di solitudine. E sono andata a vedere di che cosa si trattasse, perché effettivamente questo è un momento in cui la solitudine ha una valenza particolare che non aveva fino a pochi mesi fa. E quindi ho scoperto che c'è un concorso, è stato bandito un concorso di cui voi eravate media partner, insieme a un sacco di teatri. E mi è rimasta la curiosità di chiederti come è andata a finire, cosa succede adesso. Allora, guarda, intanto ti ringrazio perché Prove Generali di Solitudine è stato un grandissimo successo di partecipazione di persone semplicissime che hanno deciso di rispondere a una chiamata durante il lockdown fatta dalla compagnia Carrozzeria Orfeo, una delle compagnie più interessanti del nuovo linguaggio. Parliamo comunque di una compagnia che ha trasformato uno dei suoi spettacoli Thanks for Vaselina in un film, cioè loro hanno pensato di chiedere alle persone che erano chiuse solo in casa di creare dei brevi testi di stand-up comedy e di sottoporle poi non solo, diciamo, ad un concorso con una piccola giuria creata da loro, ma anche di attivare tramite noi una sorta di voto del pubblico, dei lettori. E guardate, è stato incredibile perché vedere ogni volta leggere da parte dei lettori 5-6 mila letture di testi, di brevi testi di stand-up comedy, e poi partecipare al voto altre migliaia di persone, è stato incredibile. Io stesso non avrei pensato che ci sarebbe stato così grande passione e partecipazione, e questo vuol dire che al di là del piccolo contributo economico che veniva riconosciuto ai vincitori, ci sono stati 4 momenti di concorso, però vuol dire che c'è un sacco di interesse verso la creatività diciamo autogenerata, che le persone chiuse in casa in realtà avevano bisogno e voglia di venire fuori, di esprimersi, di raccontare il proprio talento. Anche persone che non avevano questa cosa come missione di vita. E noi siamo stati molto contenti di essere media partner di questa iniziativa, molto molto, veramente. È stata una cosa che ci ha riempito di grande gioia, ecco. Volevo chiedere, ma si possono reperire questi, un po' del materiale, o almeno quello dei vincitori, o la vostra, anche un racconto della vostra esperienza all'interno di questa di questo movimento che manco Sanremo praticamente provoca, e invece per fortuna rispetto... Guarda, cercando sul sito anche solo con... ok. Vado a smanettare, sì, grazie. Esatto, ci sono tutti i testi vincitori delle varie sezioni, non solo, ma noi proprio come rivista, proprio per facilitare e incentivare, abbiamo pubblicato non solo i testi vincitori, i 3 testi che venivano in ognuno dei 4 contest menzionati dalla giuria, ma abbiamo chiesto ai giurati di ampliare questo gruppo ristretto ad altri 2-3 partecipanti, in modo che poi si potesse dare anche un televoto dei lettori più ampio rispetto ai 3 individuati dalla giuria, proprio per dare a qualcun altro il modo di essere ripescato. E quindi c'è stato insomma il voto dei lettori e poi il super voto, insomma è stata una cosa che è durata per tutto luglio, un po' di agosto, dove alla fine c'è stata un'ultima super vincitrice che intervisteremo prossimamente online. E io direi altro che Sanremo, cioè hai voglia che Sanremo dura quella settimanella lì, invece noi qua andiamo avanti. E a questo punto io purtroppo, ragazzi, il tempo è sempre tiranno del Coxo e quindi ci avviamo alla chiusura. Però a proposito di queste, di partnership, questa parola, effettivamente io ho visto che PAC è coinvolto in tantissime, con da tantissime realtà per tantissimi tipi di ideazioni, programmazioni. Vuoi un po' parlarci di questa galassia di partnership che avete in atto? Paneacquaculture.net è una rivista che è una delle poche redazioni culturali che testimonia lo spettacolo dal vivo e che è presente praticamente dalla Lombardia alla Sicilia con i suoi redattori. Questo ci permette di essere testimoni e di poter raccontare moltissimi festival che con un piccolo investimento, che è quello poi che cerca di remunerare il lavoro di chi va a raccontare l'esperienza, di fatto permette agli eventi stessi, ai festival, ma anche alle stagioni teatrali, oppure anche a degli eventi performativi occasionali, delle piccole rassegne, di essere testimoniate e di entrare in contatto con gli oltre 150.000 lettori annui che noi diciamo abbiamo e che sono un gruppo veramente un nocciolo duro di affezione alla rivista, ecco. E questo bel farcito numero di lettori che hanno attraverso voi la possibilità anche di, come diceva Laura all'inizio, avere un approccio più amichevole a questi codici del contemporaneo, che a chiamarli così già vengono i brividi, insomma, no? Esatto, allo spettacolo, all'arte, al teatro, alla danza, all'arte performativa, cerchiamo di renderli comprensibili e di creare un ponte fra il palcoscenico e lo spettatore. Mestiere, cioè che cosa significa essere un critico d'arte oggi? Essere un critico, secondo me, è una parola che dovremmo tutti provare a declinare su noi stessi, cioè l'atteggiamento critico verso la conoscenza è sempre una cosa che deve indirizzare il nostro vissuto quotidianamente. L'esercizio del pensiero, parole sante proprio, scusa, ti ringrazio. Quindi io penso che fare critica sia qualcosa che tutti dobbiamo fare. Poi occorre fare critica in maniera consapevole, cioè parlare dopo aver studiato, dopo aver conosciuto, dopo essersi sforzati di mettere assieme tutti gli elementi che possono permetterci di esprimere un giudizio o un pensiero, non solo in forma emotiva e improvvisa, ma anche in forma più ponderata e consapevole. Questo significa ovviamente che uno dice, vabbè, ma io come inizio, se non inizio mai? Ed è il motivo anche per cui si sono create tutte le riviste online, perché purtroppo sui giornali cartacei nell'ultimo decennio la parte relativa alla cultura e al linguaggio, prima quando io ero adolescente era la terza pagina di tutti i quotidiani, la cultura. Adesso invece ci sono piccole pagine sperse in fondo a qualche allegato pieno zeppo di pubblicità, e dove i trafiletti soprattutto sul teatro sono ormai piccoli incisi, e quindi salvo non si paghi per avere degli spazi, purtroppo la maggior parte dello spettacolo dal vivo non viene raccontata. E invece è una comunità molto viva, non grandissima, ma molto molto militata, che online trova il suo luogo naturale di elezione e di testimonianza, e noi facciamo resistenza culturale in questa forma qui. Meraviglioso, voi non potrete vedere, ma intanto che Lorenzo parlava, io e Laura eravamo lì che inneggiavamo, disciplinate e silenziose, come si combina le registrazioni su queste piattaforme, che sennò si formano i glitch, e quindi con questo botto di positività dichiaro concluso il 331esimo COXO, e ringrazio Lorenzo Francabandera per essere stato il super mega galattico ospite di questo COXO, e ringrazio tantissimo Laura per essere tornata alla co-conduzione. Grazie a voi, grazie a voi entrambi, a Renzo Francabandera, lo dico tre volte giusto per emendare i miei errori all'inizio, Renzo Francabandera, che con la mia R è proprio... Esatto. E grazie a Fedra, grazie al COXO. Laura, sì? Gli avevo tagliati gli errori. Però non c'era traccia, però noi onesti li dichiariamo, e poi Renzo faremo una puntata, perché dovrai tornare di nuovo, ovviamente. Grazie, grazie. Cerchi, non vuoi, però il COXO ti ritocca, è una maledizione cosmica, e volentieri una puntata sul tuo cognome, probabilmente. Esatto, mi sembra interessante. Va, guardate, io intanto ringrazio moltissimo voi di questa chiacchierata stimolante, e parlare di arte in allegria è sempre complesso, e quindi COXO è una dimensione della conversazione molto piacevole, sia da mettere in pratica che poi da ascoltare dopo. Quindi intanto saluto gli spettatori, li invito a seguirti e a seguirvi anche nelle prossime puntate, e invece per chi vuole può cliccare su paneacquaculture.net per venirci a trovare. E chissà che la prossima volta saremo tutti dal vivo in studio. Molto volentieri. Speriamo. Ciao.